a centro muy sistema e di para. Se avevo avuto 18 anni come perché ne ho lasciato in occhio. Se avevo avuto 18 anni come perché era andato noi fa, sono fatti e li ho avuto tutti. Ragazzino ancora, ciao giù. Non doveva farlo quello che ha fatto, no? Porca miseria, c'è un casino a Cagliari, ma casino però me. Sera. Ciao, ciao già. Tutte forza perché sono imbecilli. Perché se lo che cos'è che ha fatto lì di straordinario? Ma mi ha fatto insultato tutta la partita. Anche in televisione si sentiva del bu. Che colpa ne ha questo ragazzo? Solo perché è nero, che poi tra l'altro è italianissimo, perché è nato in Italia. Per cui non capisco come mai l'italiano debba essere così tanto ignorante. Ma quando mai? Io che nasce male e prende applausi. Perché? Perché fa comodo agli italiani. Gioca con la Juve e essendo italiano prende di. Ma vuoi scherzare? Lo so, come ha detto Angelo che è andato proprio, lui era sopra, dall'altra parte nella. Le cose juventini si è visto, lui è andato nella, proprio sotto la curva dei cagliaritani e ha aperto le braccia così, non ha insultato nessuno, ma loro l'hanno preso come insulto, ho capito, dire, mi ha segnato, beh, da lì il stomacco di Gardella, c'è un casino, sono stati anche gli scontri fuori, all'uscita, niente di grave, ma comunque poteva finire meglio la partita, dai. Anche perché il Cagliari non ha giocato, la Juve nonostante, ciao Gian, la Juve nonostante avesse un bel turnover ha giocato veramente una bella partita, molto attenti, molto, ha giocato bene. Avanti Gianni. Buonasera a te Claudio, buonasera a Giulio, ben sentiti. Sono riuscito a trovare lo schema elettrico del mio baracchino. Praticamente sono riuscito praticamente a trovare la regolazione dello smitter. Oh, e quindi adesso i segnali sono buoni? Sì, praticamente così ho acceso il portatile, visto che praticamente sono sotto l'antenna e ho fatto una taratura di massima, sia con la potenza bassa che con la potenza alta. Ho regolato un po' così a sentimento lo smitter, adesso funziona. Meglio così, dai. Almeno sei a posto. Avanti Giulio. Ok, ciao Gianni. Ben entrato. Sì, fa. Ma non ha fatto niente questo ragazzo. Si è fermato, ha aperto la traccia e basta. Non ha detto una parola. Non ha fatto un gesto, non ha fatto niente. Ma io voglio sapere quanto sono deficienti questi delinquenti. Quelli non sono tipo, quelli sono delinquenti nello senso della parola. Perché non è possibile. Puoi trattare tu un ragazzo di 19 anni, ragazza, che sta appena emergendo, sta a sorta che ti ha fatto il gol. E beh, è perché non ho imparato per fare quello. Tutti giocano per vincere, per fare gol. A me l'avessi fatto qualche gesto, come ha fatto il dietro Ronaldo l'altro giorno, come faceva Balotelli. Questo non ha fatto nessun gesto, ha aperto la traccia, ed è come se fosse stata la Madonna delle Grazie, con le braccia aperte. A questo secondo te è un'offesa? Per quegli efficienti e delinquenti che ci sono sugli spazi? Ma per carità, dai, qua. Ho capito, però tutto lì è partito. E poi ce n'è bigliata con Matuidi. Vabbè. Altro giro, altra corsa, dice quello. Comunque. Niente di grave, è stata una bellissima partita e va bene così. Abbiamo preso altri 3 punti. E ora mancano praticamente altre 3 partite vinte, 3-9. E matematicamente. La Juve è campione d'Italia, va bene così, allora vediamo cosa va di Napoli, a Risetti, vedo Napoli, entro Napoli comunque, Napoli lo travolge all'Empoli, quindi non abbiamo problemi, l'Inter si deve giocare la partita, ma chi perde 2 punti da Romila, quindi va bene, forse è un punto pure, mi sembra che sia, non lo so, va bene. Ok, avanti Gianni allora, dai. Ehi, adesso hai il segnale di 9:20 pieno. Quello è il mio segnale lì da te, perché tu mi arrivi, quando è tutto a posto mi arrivi così, non pensare che mi arrivi 9 con quell'antennino, quindi va bene, ok, adesso vediamo, dove va? io dovevo fare delle cose tra sabato e domenica in campagna, però Alice che ha dato che è arrivato l'acqua, ma oggi doveva arrivare, vediamo da domani, fino a fine settimana, nulla ne sai di Giulio. Sì, invece ho detto, ma l'acqua nella barraccia lì, alle parti di nuvole, eccetera, quindi sicuramente stava piovendo. E domani gioverete qua, senz'altro, perché se smette l'ha già fermato. Per cui staremo a vedere, non so cosa vuoi che ti dica. Però se sa l'acqua di questo periodo, insomma, qua, così che fa ridere lì, qualche gusto non è niente di più. Non penso che qui i disagi assolutamente no. E allora Gianni, ti hai regolato lo switcher, hai fatto bene. Con il tribellino hai toccato, no? Qual era? Per caso M13 lì, oppure ha un'altra sigla. Avanti. Buonasera a tutti, dai. Appena atterrato a casa, ciao Giulio, Gianni e Claudio, poi non so ancora chi c'è in ruota. Ma non si scende dopo questo, dove la travagliamo? Mi pare che non riservi i dottori tu. Va bene, adesso controllo. Controllo a vedere, io sono dalle 6:30 che sto lavorando, sono le 6 di sera. Bello, sono 12 ore fuori di casa, attenzione. Vabbè, conto un'ora andare, un'ora tornare e te ne ritolgo, sono 2 ore. Poi fai pausa a caffè, ti mani la briciola, stai con me con WhatsApp, alla fine hai travagliato 3 ore. E io ce l'avevo ragione, no? Va bene, ok. No, al discorso dell'acqua, io ho stazione meteo qua, e da acqua d'altra notte, dalle 4 del mattino fino alle 17 di domani sera. Fino a domani sera, ma forte, ma a 2 muretti dobbiamo intrancare. Lasciamo perdere. Sì, lo so, ma non l'ho sentito il meteo. Matteo Vidivi, il meteorologo della DTG3 Sardegna, lui è preciso, poi vediamo quel tipo, forse il migliore in assoluto di tutti quelli che danno il meteo o Massimiliano. Intanto ti saluto. Sì, ciao Giulio, buonasera, ben ascoltato. Cos'è che stavi parlando sotto, Cla? Ho detto, dobbiamo intrancare 2 muretti, quindi li lasciamo perdere. E dove? Fuori? Ehi. Chi anda sabato? Domani venna di me. Domani sera dalle 17 non l'hai messo più. Ah, quindi per fine settimana si può fare lavoro. Positivo. E allora, bella, ci organizziamo. No, perché l'età non stava dicendo appunto. Se piove poi è un casino. Vabbè, dai. Allora ci organizziamo. Infatti sono andato via a Bricco, ma anche un parato, io non sono andato, però col funerale attraverso, funerale di questo amico che abitava qua, nel mio proprio mio palazzo al quarto piano, e poi si è trasferito via Follanini, lavorava alle poste, postino, e lì a Fredagnetta ci ha lasciato la penna a 60 anni, ci ha giunto una moto, 40 di goma, avanti ieri è morto, c'erano i funerali oggi, vabbè. Avanti Gianni. Abbassa gli altri radio però. Abbassa? Abbassare gli altri radio. Gli altri radio. Tutto l'altro, va giù 4:46, boh. Era l'ultimo dello strumento. La televisione. Sì, le hanno allora, o ti chiudi la porta. Certo, perché sente un bella televisione. Allora mi chiudo la porta. Riprendi già. Ehi, buonasera Massi, ben sentito. Adesso io mi sono aggiustato lo switcher e ti posso dire che sei 9:10 qua. E tu sei 9. Tu sei 9 qua, capito? No, va benissimo già. Sei perfettamente buona la radio, ti ripeto. È un po' bassina di modulazione, però il segnale 9, buono, va benissimo. Ho aggiustato lo smitter, c'era una regolazione interna, ho beccato lo schema elettrico su internet e ho tarato lo smitter, quindi adesso è attendibile. Ascolta, invece la LC, perché non l'hai guardata se è tutta aperta? Sarebbe? La modulazione, no, la LC è la modulazione. Dovrebbe essere qualche trimmerino che aumenti e ti aumenta anche un po' la modulazione. Guarda, siccome la definizione della fotografia, perché è un JPEG, non è molto non è molto ben definita, quindi quando la ingrandisco praticamente tende a sgranare e i numeri diventano illeggibili. Ci sono altre due resistenze, una vicino alla la sezione audio e un'altra dalla parte dove c'è praticamente, non so, dovrebbe essere il modulatore comunque, perché vicino c'è un altro finalino. Adesso non voglio mettermi a toccare così alla giga, però voglio approfondire. Appena so qualcosa di più mi metto a smanettare, vediamo un po' se riesco a tirare fuori qualcosa di più. No, allora quel finalino che vedi, quello è il finale audio, capito? Cioè la ricezione, diciamo, ecco, tutto lì. Però se non so se hai i trimmer, quando tu apri la radio, no, ci sono i trimmerini che c'è scritto VR10, VR9, VR14, VR, non so se quello lì ce li ha così. Sì, sono nominati VR, ce ne sono 3 o 4 se non sbaglio, quello dello Smith era il V3, il VR3. E gli altri che siglano? Non ti ho copiato, ripeti. Ho detto, gli altri trimmerini che sigla hanno? Sono sempre VR, capito? Sono quelli in vecchia maniera praticamente, con la... non sono quelli in plastica, sono quelli che c'erano prima, con la graffite praticamente a vista, capito? Sì, già ho capito io, però hanno la sigla, a quella sigla corrisponde per esempio la modulazione, la radio, i watt, queste cose qua. No, nello schema elettrico non è indicato, sono i valori dei componenti e basta. Ok, provate ad andare su internet e scrivere il modello della radio, vedere un po' la LC, cosa ti dice, cosa non ti dice, domanda. Sì, mi ho già scaricato lo schema elettrico, però non ho trovato nient'altro, giusto un paio di fotografie e basta. Ok, là, ok, va bene, avanti Giulio. Ok, sì. Gianni, guarda se c'è qualche sigla dove c'è scritto ALC ed è quello con la radio, per cui comunque se c'è VR14, VR13 sono quei due che devi toccare per avere più potenza, infatti l'uscita è sul radio anche. Vabbè, lo troverai sicuramente primo punto e vabbè, cosa ancora dire, boh, non lo so, di cosa parliamo Claudio? Di cosa parliamo? Facciamo prendere il calcio perché sennò mi viene un argomento. No, lasciamo perdere, aspetta, sto facendo una prova. Ecco qua, stavo regolando il... Tornando al 430, è per quello che sente un po' di amplificazione, è più forte come radio, non c'entra a fare. Ce l'ho già un po' accesa e non si è ancora chiudata. Chi schizza radio va l'automatico, quando è caldo addirittura la giura. Adesso vediamo se si spegne perché ce l'avevo aperta, gli ho spruzzato un po' di spray per contatti nella parte dell'alimentazione. Vediamo. Ehi, va bene. No, c'è una bella modulazione. Va bene. Ehi, va bene, visto che ce l'avevi lo spray per contatti, lo potevi spostare tre parti, guardi una fuori. Sì, vabbè, l'ho spostato lì nella parte dove c'è l'ingresso all'alimentazione, per vedere se c'è magari un uscio lì dentro, non lo so. Ed è per quello magari quando scalda si chiuda. Oppure l'ho dato una passata sopra così, ma è bella pulita, ordinata dentro, e quella va tutta revisionata a Fabrizio, quindi ho cambiato anche il display, ho messo il display nuovo, è sempre andata bene, anche se mi aveva detto che prima o poi già mi lasciava a piedi, però a piedi così no, e noi si divitiva. Va bene, poi gli ho cambiato il connettore, anziché metterli quello suo, ho invertito quello dell'Helicom, gli ho messo quello suo, l'ho messo all'Helicom che c'è un attacco uguale, vediamo. Va bene, non lo so Giulio cosa va a dare, sinceramente non lo so, io alle 3 mi ero a un funerale, che appunto era il telefono Massimiliano, nuda, non so manco riposato, niente, non so manco cosa è successo qua in cantiere, nuda, chi se guarda video non verrà più nessuno, comunque, vabbè, domani si vedrà, riprende già. Ehi, adesso tramite la foto cerco di capirci qualcosa riguardo alla sezione, audio e alla sezione del, l'altra sezione del finale, dove c'è il finalino di potenza, è che è molto sgranata la foto, quindi certi valori sono illegibili, infatti io ho paura di smanettarci, tu caga che cosa gatto è, puff, e mando all'aria tutto, voglio andarci piano, vediamo un po' se riesco a scoprire qualcos'altro, avanti Giulio! Ma no, guarda che è semplice, oh Gianni, tu prima di muoverlo il tiberino, tu prendi una penna, una matita e ti segni la posizione, ti segni, il riferimento al taglio, e poi lo aumenti e controlli, se no io non ritorni al segno, non ci sono problemi. Comunque guarda, se è VR, sicuramente dovrebbe esserci uno VR13 o un VR14, uno per la radio e uno per la potenza dei watt. Dunque, non ce ne sono, è interessante che non tocchi le bobine, solo quelle resistenze lì tocca, è fatto, non tocca gli altro, se no fai il macello veramente. Tutti uguali a quelli dello Twitter, tu guardi e basta, non toccare altri, non toccare assolutamente le bobine, se no non metti più, e non funziona più, perché allora poi ci vuole veramente il micro strumento per allinearlo. Dunque già è facile, dai, non è così difficile. Avanti qua. Ehi, non sto cercando l'adattatore da 8 a 4, voglio provare perché l'avevo provato una volta, una bomba, voglio provare l'MBP5 sul 430, riprendi Massimiliano, non lo trovo, mangio tutti gli adattatori, non lo trovo. Aspettarlo, ammettila che va bene. Oh Gianni, fa una cosa invece, apri la radio e leggi tu fisicamente che trimmer leggi. Senza guardare lo schermo, contanto puoi modulare tranquillamente anche con la radio aperta. E adesso una volta che ho trovato lo smitter l'ho richiusa, viene un po' male adesso a lavorarci a cuore aperto. Io non ho preso 4 viti. Ho acceso il computer, stavo provando a cercare qualcos'altro, se becco anche qualche forum, se becco qualche dritta. Ma se tu apri la radio e leggi che trimmer ci sono, poi si equivalgo, non è che capito. Cioè, a posto di stare lì in un pezzo di carta nel computer, li leggi direttamente tu e ci dici quello che è, capito? Tanto non ti cambia niente. L'unica cosa che ti cambia è che devi lavorare con la radio aperta, ma non cambia assolutamente niente. Giulio, ce n'è un altro da toccare per la radio però, Oltre che il 14 ce n'è un altro ancora. Devi giostrare tra il 14 e il 16. Lo so, però non tutti ce l'hanno il 16. Non tutti i baracchini ce l'hanno il 16, lo so, ho tutta la vista io del percorso. Allora, avevo volato anche a Luigi, avevo volato, avevo messo a posto il Galaxy Saturn Echo, ce l'avevo messo a posto perché non riusciva proprio. Gli avevo dato tutte le regolazioni, lui l'ha fatto e se l'ha messo veramente a posto. Poi se l'ha venduto. So che se l'ha venduto anche da poco tempo fa. Va bene, dai, comunque. Non è difficile, Gianni, quando si è voluto lo fai quel lavoro, però naturalmente è meglio che ci siamo di noi, per gli altri controllo del radio, perché alle volte se va più troppo del tipo andare in saturazione. Dunque bisogna stare molto attenti anche a quello. Non è detto che quando lo fai, lo puoi fare avendo il nostro solo per le basse, ma per la radio ci dobbiamo sentire. Perché se no, secondo quando giri, guarda, può anche uscire compressa la modulazione, o addirittura non uscire niente. Per cui, lo so, perché l'ho fatto tante volte, li metti in baracchini, e a Guglia, alla grande. Sì, va bene, adesso non tocco niente, magari un altro momento con più calma mi segno i riferimenti con la matita e provo a smanettare, sì, no, più che altro siccome i trimmerini sono quattro dentro la radio, ne ho trovati tre, adesso l'altro sicuramente è molto nascosto, perché nello schema elettrico ne ho trovato quattro, ho aperto la radio e ne ho visti solo tre, devo riuscire a trovare il quarto. Niente, adesso piano piano, adesso il VR3 so che è dello smitter, adesso vado per esclusione e poi piano piano inizio a smanettare, capito? Quindi faccio prima, cerco di avere, di buscare un po' di informazioni in più. Va bene, avanti qua. Sì, aspetta un attimo, sto facendo un collegamento. Come si chiama questa radio, ve lo dici? Guarda, Asahi, Asiago, Sassari, Asiago, Hiroshima, Italia. Modello ACT4023. Stai calmo. Asahi, come si chiama? Allora, faccio spelling. Arborea, Sorso, Arborea, Hiroshima, Imola. Aspetta, Hiroshima con la I lunga? No, H come Hiroshima. Allora, A-S-A, Hiroshima. H. H-I. Asahi, giusto? K. Modello, che cos'è? Questa è la marca, il modello? Ancona, Como, Torino, 4023. Come? Allora, faccio ACT, Ancona, Como, Torino, 4023. Cerca. No, l'ho trovato, non è che cerca. Asahi, Torino, ACT, 4023, radio. Eccolo qua. Sì, l'ho trovato. C'è anche su eBay. Sì, l'ho visto. Forse è stato già venduto, credo. Cioè, è proprio invisibile questa radio. Cioè, c'è addirittura uno che è chiuso in scatola. Sì. KK, vediamo un pochettino. Sto frugando, Vai giù. Ok. Ehi, ci sono tutti si trovano al computer, se fa vedere tutti. Sicuramente. Buongiorno, ho entrato nel sito Midland, così curiosando per il tuo mic e il TikTok, eccetera. La Midland ha tanti di quei apparati di seconda mano, tutti quanti ce l'hanno garantiti. Addirittura ne ho visto anche da 60 euro, tu puoi immaginare, usati naturalmente, però ce ne sono anche da 150 euro. Che costano intorno ai 300, ci sono tante radioline proprio di ogni tipo, di ogni marca, ma si vede che se vuole liberare tutti proprio per il fatto che adesso hanno fatto questa applicazione TikTok, e dunque magari loro pensano che il baracchino non va più, e invece io sono convinto che il baracchino male. Vabbè, dai, avanti Gianni. Ma mi sentite col 3 più 3? Sì. Quanto mai questa modulazione? Buona. Oh. Vabbè, tieni conto che l'amplificazione, allora, è a 2, a 3, a 4, troppo alta. Sì, a 2, va bene. Ci metto le cuffie, riprendi già, hai dato, però già ce l'ho io, per i microfoni anche. Ma l'aveva fatto Luca Del Monte, infatti non lo trovavo, era dentro il cassetto, da 8 a 4. Buona volazione. Ascolta, già, e quel pomellino che c'ha tutto a destra cos'è? Ma sotto l'indicatore dei canali dici? Sì. C'è lo squelch che poi come lo chiudi tutto diventa PA. Sì, proprio non fa nulla proprio, Cioè, 40 canali, boh, accendi, spegni, squelch, non fa altro. K, vabbè, quartate ne ha solo 27. Dal 28 in giù non c'è niente. È proprio baracchietto. Non te l'ho detto l'altro giorno che è una vecchia radio anni 70, quindi molto semplice, è proprio base. Sì, sì, ma proprio semplice, a chi proprio non fa nulla. C'è quello che ci hanno messo, quello che serve, boh. No, ma voglio dire, funziona bene, a parte la crocchia del cavo che ho messo, però insomma, già lo fa il suo dovere, quindi adesso vediamo un po' se riusciamo a tirare questa cosa in più. Sì, sì, sì, va bene, va bene. È proprio giusto perché devi avere anche il microfono, capito? Vabbè, comunque, avanti, facci sentire, io. Hola, hola, hola, hola. Ehi, sento anche troppo alto, Tolto la metà uno. Non va bene, no? Esci, via. Ma mi ricordavo che andava, Va bene, dai. Non mi posso avvicinare che sono in cuffie, se no è troppo alta. Va bene, avanti Giulia. Ok, cos'è che stai usando adesso? Sto usando il... aspetta che... vabbè, ora non fate contatto. La 6 che laggiù. La 6 che laggiù, fatto il gozzo. Questo microfono, microfono invece. Questo è il tranne più 3 col 430. Ah, ho capito. Lo sai che ieri ne ho visto uno di 430, un tipo di Montano lo stava dando, dice pulsante in tutte le sue parti. Bene, bene, bene. Abbastanza tenuto bene, 3,50. E più o meno il prezzo suo. C'è qualcosa che non va però qua. Ah, ecco. Il prezzo suo è anche 400, si può comprare, se è a posto sì. Se è a posto sì, un ottimo ricetrasmettitore. Come ricetrasmettitore un po' superiore al 440. C'è un bel ricetrasmettitore. Pochissimi difetti. Rispetto al 440 ha pochissimi difetti. Va bene, eh? Ok. Avanti, Massimiliano, riprendi. Claudio, devi abbassare ancora un pelino, perché sei quasi al limite. Aspetta, allora, devo abbassare un pelino, ecco qua. E uno è Massimiliano, se rubo così non esci, dai. Ora. Così a zero. Così invece è a 1, ecco qua. A 1, ce l'avevo a 2,5, a 1,5. Ecco, a 1 va bene, perché così eri. C'è presente quando sei quasi all'innesco, così eri. Sì, no, va bene comunque. No, non ce va bene. E avevamo già Luca Del Monte, aveva l'MB più 5, però ho provato ed evidentemente non va bene l'adattatore. Provando il tanno più 3 e la modulazione non è che cambia molto, siamo lì, insomma, va bene, dai. Volevo fare una prova, dovrebbe essere meglio dell'MC60, mi pare che sia uguale, non ci hanno venuto. Beh, prova il più 5, no? Questo che ce l'hai. Se l'ho provato è diverso l'attacco, anche con l'adattatore non va. Devo per forza usare l'adattatore, evidentemente le connessioni sono buone, queste a 4 per l'adattatore che aveva fatto Luca, capito? Ah, ecco, va bene. Ma boh, dai signor, io dai, vado a farmi una bella doccia e al limite ci sentiamo dopo, lascio acceso qua e riprendo dopo, mi faccio la doccetta, ma anche io che sta comunque, va. Avanti Giulio. Ok. Dunque va bene, lo so, non c'è un problema. fatto un filo abbastanza lungo anche tra l'altro, perché mi dice che è battagliato quel filo, perché è un filo a 8 fili, cioè un capo a 8 fili, per cui non ho voluto sprecare, non avrei fatto magari un petto a farti ai 2 fili, tanto per avere l'adattatore, invece è un petto che è lungo almeno un metro e mezzo, che puoi immaginare. E mi dice che è battagliato, forse dire per altre cose, per altri gruppi, per altri maracchini, non so mai. Va bene, avanti, dammi. Sì, sì. Claudio, la radio è sempre quella. La modulazione è sempre quella. La classica, dai. Cambiando l'ordine dei fattori, il prodotto non cambia. Beh, non cambia, no. Se non c'è la modulazione, la voce, per quello discorso. Va bene, va bene. No, era una prova, avevo un dubbio, perché siccome c'ho questo adattatore e c'ho un ICOM base che non ha microfono, nel senso microfono base, allora le metto uno di questi miei che c'ho e lo uso con quello lì, capito? Va bene, ricambio microfono, allora la prova l'ho fatta, riprendi Giulio, ciao Massimiliano, ci sentiamo più tardi, riprendi Giulio e rimetto il 60. Ok, sì, certo. Giulio, ascolta, cosa ne pensi della Ringo come antenna? Hai avuto esperienza con l'antenna? Sì, quando piove ci sono molti stazionari, perlomeno una volta era così. Quando piove è un'antenna che ci porta molti stazionari, la Ringo. Fra tutte le antenne che avevano fatto, non è che mi dia da fare. Una mezz'ora mi sembra che sia, se ricordo bene. L'antenna per andare bene volevano circostare. La circostante era migliore. Per cui anche una tre quarti d'onda va benissimo con me. Però quello è troppo un animale. La circostante la migliore è qui. Che poi in definitiva era qualsiasi cosa. Tre quarti d'onda. È la stessa cosa, non faccio più niente. Va bene, dai. Perché la Ringo ti vuol piazzare? No, vabbè, adesso era così a livello accademico, sono entrato nel forum, stavo leggendo un po' di pareri, a quanto stavo leggendo è un po' propensa a fare TVI con l'antenna per via di quella sorta di, come si chiama? Quell'affare, non mi viene il nome, aiutami, vabbè, ti rilancio il microfono. Ho capito. No, ma tranquillo, no. Io la lascio in pelle, io la Ringo personalmente la lascio in pelle. Per me è un'antenna che non ha mai dato prestazioni tranquille. A parte il TVI, sì. Ma poi probabilmente il TVI a parte non lo faccia più dal momento che abbiamo il digitale. Però è meglio non rischiare. Perché se ti fermano una volta, poi la colpa è sempre tua, anche se ti ferma un fatterotto su un'antenna e le crea una piccolissima interferenza, la colpa è sempre la tua. Per cui io andrei su antenne un pochino più serie, se tu devi mettere un'antenna in ricordo. O te la ricostruire, o perlomeno fai antenna, fai un'antenna verso la manta, ma se sei tranquillo, quelli vanno bene, no? Anche la 827 della Figlio va bene ugualmente, anche questa è una buona antenna. Si tratta di stabilire il guadagno, perché il guadagno se lo danno come guadagno riso o guadagno di dite, non lo so. Comunque è una buona antenna, anzi devo dire che come struttura, come meccanica è molto bella, anche perché c'è, volendo c'è anche il raggio o la raggiera per mantenere i radiali, di modo che quando c'è il vento non vibra. comunque non si crea, non si crea fischi eccetera, a differenza magari della volta, ma che si può creare fischi, ma lo vedo qui da me fa così. Poi c'è anche la Massimo sempre, la 16 radiale, quella è eccezionale, io ce l'ho avuta per 30 anni e oltre, e fin quando non è caduto l'ultimo gli ultimi di radiali non l'avevo buttata giù, quella era straordinaria, veramente, i radiali corti, un metro nemmeno, 70 centimetri più o meno, non ce ne erano figli dei radialini, e anche il radiatore, cioè lo stile centrale praticamente, anche quello era abbastanza robusto, perché non si è mai tirato, mai, e per cui va bene anche quella. E vabbè, c'è da dire una cosa però Gian, Giulio non sa, la Daniele sta cambiando l'antenna, sta togliendo la Ringo e sta mettendo la Energy, ok? Quindi un corto d'onda a 5 tassi. E gli ho chiesto se mi fa la cortesia se quell'antenna anziché metterla da parte la dà a lui, ok? Al posto di quell'antennino di macchina che c'ha. Il cavo glielo sto prendendo io con due PL nuovi, l'ho ordinato da Fusaro proprio ieri, ti ho detto che andavo perché non ne aveva 58 Antonello, e quindi sicuramente va molto meglio di come sta andando adesso, no? Questo è il discorso. Ah beh, sicuramente, rispetto all'antennino è ovvio che è migliore, beh, si tratta di provare fuori, io penso che va la bene, però ho sentito dire anche da chi te l'ha avuta la Ringo, quando piove salgono un po' di stazionaria, magari rimangono nella norma e si avvicinano, però salgono, di sicuro. Vabbè, a parte Gianni. Quella che sto usando Daniele, mi arrivano quei 20, no, che va, non ha piovuto, stazionaria non ne ha mai avuto, perlomeno. Va tutta vulcanizzata, chiaramente vuole vulcanizzata, ma già è una buona antenna per l'uso che ne deve fare lui a metterla così in città. Ah, questa era la mia intenzione, non volevo fare casino. E casino di che cosa? Se tu non glielo spieghi a Giulio, Giulio ti sta dicendo che se devi comprare un'antenna, devi comprarne una chiaramente superiore a quella. Si ghiccia una cosa che ti regalano, ti biglighiccia e poi quando avrai la possibilità te la comprerai superiore, no? Questo è il nesso della cosa, capito? Sicuramente con quell'antenna, anche perché Daniele la sta usando e esce molto bene con i lavori che ha fatto, perché la bassa adesso l'ha tirata su, è 9 più 20 qua, quindi la sta usando, ha piovuto, stazionale non ne ha. Quindi il discorso è quello, no? È chiaro che Giulio ti ha detto una cosa giusta, se devi tu l'hai chiesto un parere e lui ti ha risposto, non gli hai detto però che quell'antenna te la stanno regalando al posto di quella che tu hai, quindi sicuramente va meglio, no? Se poi la devi comprare non andi a comprare una Ringo, no? Questo ti ha detto Giulio. Sì, è tutto chiaro qua, no, no, non ci piove, no, ma dico, a parte quello, mi interessava conoscere un suo parere spassionato, poi i dettagli, quelli sono altri giustamente, era giusto per sapere la sua opinione, basta, molto semplicemente quello, capito, niente di più, niente di meno. Ma figurati, infatti Giulio si è spiegato molto bene, vai giù. Appunto, fuori, si tratta anche di provare, cerca di vulcanizzarla in tutte le sue parti, dove è filtrare acqua, e basta, niente da dire. Se tu riesci a organizzarla bene, può anche andare bene, pure rispetto. Per quanto riguarda il TVI, e anche quello, te l'ho detto, oggi c'è il digitale, e le antenne che ci sono sul tuo palazzo lì, e sono buone, che non sono originite, le antenne TV qua, no? Se ci sono amplificatori o se ci sono i cosi con le scatolette che ci sono, che sono avvicinite, se tutto va a posto non ci dovrebbe essere problemi, nemmeno per i più guai. Per quanto riguarda poi il fatto di infiltrazione l'acqua, cerca di isolarla il più possibile, e così poi se ne andare conto che va bene, eppure quando è regalata è stato guadagnato, no? È come le dice sono. Sicuramente molto meglio dell'antennino che è adesso, questo non ci piove. Avanti, Gianni. Sì, vabbè, come si dice, tutto grasso che cola. Va benissimo, Vabbè, non volevo essere frainteso, vabbè, adesso era giusto. Vabbè, comunque, già abbiamo capito più o meno. Era siccome più che altro volevo spulciare su internet. Sono entrato nel forum, ho sentito un po' di pareri, insomma. Non è né un cesso né una migliore antenna, è una buona antenna e fa il suo lavoro. Questo è quello che più o meno sono riuscito a capire, quindi va bene così, bene mera, ottimo e abbondante, come diceva Mangatia, avanti qua. Aspetta, le prendi giù. Ok. Sicuramente non ci sono dubbi, è sempre un'antenna che ti consente di uscire molto meglio, no, questo non ci siamo di sicuro. Ripeto, adesso io non so se non mi ricordo se è circostante o se è del zonda, ma mi ricordo che era del zonda, mi ricordo, però anche del zonda va benissimo, non è che lo va bene, la voglia. Dipende da quanto è lunga, se è intorno ai 7 metri, allora è circostante, se invece è sui 5 metri 50, allora è mezz'onda. Sicuramente è così, non lo so, lo vediamo un po'. Tu prendila, è piatta, e poi la pluvio, e capita, no? Non ti muove niente a provarla, se la pluvi, se ti va bene, se la tieni e ti appunto, è risparmiato, almeno per il momento. Quando poi sarà il momento che potrai comprarla, nel compro nuova, però allora, ripeto, orientati sulla mandorla, oppure su una bella figlia, perché sono lì. Attualmente suppongo che siano milioni in assoluto, per la 27, se è ben chiaro, non per altre, per altre frequenze, per la 27. Per cui, vedo un po' tutto, però non mi Eia, no, va bene, ti ripeto, va bene così per adesso, quindi prendiamo tutto a braccia aperte, non ci sono problemi, no, era giusto, ti ripeto, a livello di curiosità, giusto per farmi un'idea, poi non ci sono altre motivazioni. Ho visto delle informazioni, mi sono informato e va bene così. Sicuramente il segnale cambierà da giorno alla notte, quindi ci sarà un cambiamento molto molto molto considerevole rispetto a come sto uscendo adesso, quindi è già un grande salto in avanti. sicuramente un incremento di segnale che sarà senz'altro, è anche abbastanza importante. Io penso che sia così, tu mi arrivi 8 abbondanti, 8 e mezzo, diciamo, adesso, per cui se metti con l'antenna, minimo che arrivi, sono convintissimo che arrivi intorno ai 9-10, se il fatto sarà così. Sempre considerando l'antenna che ho io, perché nel senso io come ricezione sono un po' penalizzato, perché ho l'antenna, quella che ho. Se fosse stata l'antenna di prima, allora sarebbe stato il massimo, perché in realtà è il massimo, perché la circostabile, la turbo, la moto da turbo, la circostabile è nel praticamente della 27. Per cui, però, diciamo che anche se ho il dipolo tipo canna pesca, se dovessi portarlo sarebbe uguale, ecco, uguale alla moto da turbo. Perché se la metto dove era prima, intanto è molto più in alto, molto più aperta, tutti i presenti che adesso è nel terrazzo e dunque ostacolata dai quattro muri, per cui e oltre a quello poi anche il piano di presente, anche se non ha bisogno del piano di presente, però è sempre un dipolo, è sempre un dipolo, e il dipolo per eccellenza deve essere installato più in alto possibile, possibilmente 5 metri almeno dal tetto, cioè dal suolo da dove è installato. Anche quello è importante, tutto va considerato, nel senso io il segnale che ci sto dando adesso ho permesso, magari se metto l'altra antenna, non c'è il faro, che ti dicevo anche dopo il 5, se poi metti l'arrivo che stai dicendo, sicuramente arriverai in zona dei 9-10, ne sono più che convinto, senz'altro sarà così, per cui allora va bene, provala o già, provala, non conta niente, provala, se poi ti danno problemi, per quello parlo su in un'ora che non puoi recare il problema a nessuno. Ripeto, sai come sono i vicini di casa, basta che gli si presenti una piccolissima interferenza, subito sembra che il malattio ne risolva gli occhi a queste persone. Allora ogni piccolezza da niente, anche se non ci sei a casa, la coppa è sempre la tua, perché c'è l'antenna. Mi sono spiegato già, riprende fai girare il super cloud, dopo va. Sì, sì, vabbè, adesso come adesso l'antenna è piazzata sul tubo di quella della TV, c'ho il televisore davanti, è tutto perfetto, qua a casa non sta creando nessunissimo problema, quindi presumo che non ce ne saranno neanche in futuro, capito? Quindi va benissimo così, Giulio. Tu arrivi qua adesso con lo splitter che ho messo a posto, arrivi 9.20, quindi considerando come hai l'antenna, stai uscendo una canonata. Quindi no problem. Vediamo se Claudio è rientrato. Avanti qua. Io sono 9, stavo rimettendo a posto. Ora messo ormai invece 60. Ma comunque in cuffia non si allontana molto 60, Battene più 3 su questa radio, Giulio. Va bene lo stesso. Un'alternativa per chi non ha il MC60, come diceva Marino l'altro giorno, qualità prezzo, è buono non devi e si appoggio. Invece di stare col microfono in mano, capito? Va bene, va bene. Comunque io ti posso garantire che tu con quell'antenna da lì, da quella posizione, schicchi forte, non ti preoccupare. Ho già constatato, ti ho detto, la sta usando Daniele. Daniele ha fatto uscire solo la punta, ancora deve uscire per mettere 2 metri di tubo. Se esce la carica di quell'antenna, la spiraletta dalla mantovana, arrivi 9.30, no? Tranquillo. E tu ti ho detto, arrivi Santiago 9 con quell'antennino lì e un che sciugavo prima di 9.10 con l'altro capo. Con quell'antenna lì. Quindi quando tu, io ti vedo a te, lo vedo io il centro storico, capito? Quindi arrivi molto molto forte, sono convintissimo al 100%, tu migliori tantissimo, non poco, no, tantissimo, poi ti ripeto, la questione TV è una questione di vecchia data, oramai TV non va di bene nessuno, tranne qualche imbecille che ancora c'ha qualcosa di vecchio, qualcosa di, però se l'impianto è a posto, poi non fai TV con quella lì che è ancora più pericolosa, figurati se fai TV. Daniele non ha fatto TV, ti sto dicendo, ce l'aveva bassa, adesso l'ha tirata su. Comunque vediamo quando te la dà, poi che la piazzi, vediamo, per me arrivi molto ma molto più forte. Sì sì, ne sono sicuro, sicuramente riesco a saltare qualche ostacolo che ho attualmente, quindi la cosa non mi preoccupa, anzi sono contento qua, sono contento, l'ho detto stamattina, quindi non mi voglio ripetere, non mi voglio assolutamente ripetere, quindi va benissimo così, solamente per adesso grazie mille, quindi va benissimo così. Poi magari sicuramente arriverò meglio a Porto Torres, quindi sentirò meglio anche Eugenio e tutta la truppa, Franco da Sorso, e magari qualcun altro Alghero, adesso non mi ricordo se era Francesco, ogni tanto Giuseppe, poi vanno fino a me, comunque sicuramente migliorerà notevolmente la cosa, quindi tanto di guadagnato, e ce lo prendiamo tutto quando arriverà, quindi no problem, avanti giù. Ma sì, certo che ci guadagni, già lo credo, ma ci guadagnerai non solamente di segnale, ma anche di radio, perché hai più segnale e un po' di radio in più, anche se non dovresti, se non tu non apri ancora la la RT di quel baracchino, non va bene lo stesso, problemi non ce ne sarebbe, o al limite si può mettere anche un microfono un po' amplificato, no? Ci sono microfoni che costano 30 euro, quindi con la pastiglia da un e mezzo, però non con la pastiglia da 9 volte, però con la pastiglia da 9 volte costano intorno ai 70-80 euro al mare, sto parlando di palmare, e poi lo vuoi in a tavolo, guarda, intorno ai 65 euro, 80 euro anche, un MD te lo compri tranquillamente, no? Non ci sono problemi. Sì, ma a parte quello, io non intendevo se vuoi da te, sei tu e basta, sei tu quello che devi fare. Devi stare attento agli altri, quello che intendevo, perché ne abbiamo la prova, anche da poco, un nostro amico che modulava insieme a lui, lui dava fastidio, sto parlando di satellite, dopo magari le antenne sono anche le domande, parlo delle antenne TV, si è installato questa antenna e il caso ha voluto che gli subava. È andato avanti per un paio di mesi, dopodiché gli hanno mandato il controllo e gli hanno sequestrato il baracchino. Per cui io mi riferivo agli altri, tu devi fare attenzione a non disturbare gli altri. Se ti disturbi tu, sei tu e basta, nessuno ti dice niente perché è roba di casa tua. Ma io mi riferivo agli altri, quindi alle altre televisioni, alle altre persone. Comunque tu prova, metta in sicurezza, teoricamente la devi mettere almeno un quarto d'onda più in alto delle antenne TV, un quarto d'onda che intende intorno ai 3 metri, perché è 2,75 un quarto d'onda. Dunque tu lo metti almeno 3 metri più alto delle antenne TV e vedrai che se ci fosse diciamo qualche problemino, mettendolo o più in alto o a quell'altezza, dovresti eliminare i gruppi e i problemi. Ecco quello che ti volevo dire. Ci sto dando questi consigli perché io ho una certa esperienza, però tu della frequenza sei nuovo o quasi, per cui è meglio che tu sappia certe cose. Mi sono spiegato Gianni, perché se no già lo sai, quando mi si mette sopra l'antenna della TV si mette un passero o un gabbiano, un piccione o qualche volante che gli muove l'antenna e gli fa una piccola interferenza, la coppia è sempre tua, anche se a casa tua non ci sei. Ecco quello che intendevo dire, o Gianni. Non è così, o un clown. Così è. Non è detto perché non disturbi a te, non disturbi agli altri. Bisogna stare molto attenti, controllare, stare attenti a cercare dei reclami e avere soprattutto molta educazione in queste cose, capito? Perché a volte l'arroganza, la maleducazione fa sì che vada peggio la cosa. Se invece la cosa si prende con educazione, con delicatezza e si cerca di parlare, di discutere, di affrontare il problema. I problemi si possono risolvere, non si risolvono né con la maleducazione né con l'arroganza. Questo è il concetto che da un po' di tempo a questa parte mi hanno insegnato. Comunque, vedi tu, una volta che è montata poi si vedrà. Guarda, adesso ti dico più o meno a grandi linee come la situazione. Allora, il tetto praticamente è calpestabile, catramato con tutto intorno il parapetto, ok? La tromba e le scale finisce praticamente sul tetto, quindi c'è la tromba e le scale, praticamente la tettoia sopra il tetto. Praticamente tutte le antenne del palazzo sono attaccate al parapetto. La mia antenna della TV è attaccata praticamente all'uscita della tromba e le scale, che ha praticamente il suo tetto. E il tubo dell'antenna della mia televisione è fissato lì e l'antenna è in punta allo tubo. È molto molto più alta rispetto agli altri, quindi sono molto ma molto ma molto sicuro che non sto creando assolutamente nessun disagio. Sì, va bene, poi ti ripeto, quella senza presenza radiale, quindi lavoro invece che era stato fatto, quando è molto bassa hai molti più rischi, capito? Però se riesci a superare gli ostacoli TV, penso che problemi non ne hai. Comunque, ripeto, quando sarà montata, farai le prove. Starai attento, vedrai se è lamentele, non è lamentele, ma se non è lamentele vuol dire che tutto è a posto. Capito? Ma non pensare, perché non disturbi a te, non puoi disturbare gli altri. Va bene, avanti Giulio. Ok. E appunto, è quello che è già un montaggio, se tu hai attaccato alla tromba del parapetto della tromba delle scale, è già pieno alto rispetto a quello del muletto. Perché il trucco qual è per evitare complicazioni o danni? È quella di metterla più lontano possibile dalle antenne TV. Ecco qual è il trucco più importante, e soprattutto più in alto deve essere a livello di altezza rispetto alle antenne TV almeno 3 metri più in alto, perché più in alto è meno possibilità di disturbare il settore, per cui vedi un po' tu anche a costo di spostare dall'altro muro, per dire, se è possibile, in modo che sia il più lontano possibile dalle antenne TV, non dalla tua. La tua fregatene, che già lo sai, la tua è fatta, ma quella delle altre persone, perché se loro hanno una noia che tu non hai idea quanto sono rubricato di queste persone, perché già c'è una specie di allergia, realtà. Quando vedono che montano l'antenna nel baracchino sul tetto, c'è subito qualcuno, quello si sente già disturbato senza nemmeno essere piazzata l'antenna, vedo un po'. La gente purtroppo è così, poi che lo faccia per malattia, per gelosia o perché sono mentalmente malati di certe idee, e allora è meglio evitare, è quello che intendevo. Già. Avanti Gianni. Sì, adesso ti spiego. Qua a casa praticamente dove sto io c'è l'antenna TV dove ho messo l'antenna del baracchino in punta, che praticamente sta da una parte. Tutte le altre antenne del palazzo sono praticamente attaccate al parapetto del tetto, praticamente dalla parte opposta, ok? Qua a casa per una questione logistica non abbiamo una sola antenna TV, praticamente ce ne sono tre, ok? E praticamente ogni televisore ha la sua antenna. Ho fatto praticamente un controllo così veloce e in tutti i tre punti, con tre antenne diverse, praticamente il risultato è nullo. Quindi attualmente ho fatto questa piccola ricerca, in tre punti con la TV praticamente non succede niente, e questo è già buono, capito? Sì, tu fatto l'hai fatto, avete provato, l'hai fatto con la tua antenna, cioè nel tuo televisore, quello d'accordo, anche se ti risponde tu, sono problemi tuoi e nessuno ti può dire niente, ma il problema è se dovessi disgraziatamente disturbare qualcuno del palazzo, ecco qual è il problema. Non è il problema, non sei tu con la tua antenna, assolutamente no. È il problema è le antenne degli altri, quello che è in te. Per cui fai le cose per benino, con prudenza, perché poi non te li togli più di rosso, per carità. E poi con la tua disgraziatemi, allora in quel caso noi, mamma mia, la colpa sarebbe sempre la tua, io lo so, perché così, ripeto, tempo fa, risalente a qualche mese fa, gli hanno chiamato il controllo, gli hanno mandato il controllo a casa, gli hanno sequestrato la stazione, gli hanno fatto anche la multa, 60 euro di multa, e gli è andata bene, per cui vedi un po', dal giorno non è più entrato in frequenza, e non potrà entrare più, perché quello, nella condizione in cui è, nonostante che l'antenna del vicino, cioè l'antenna TV di quell'uomo, di quei giovani, sono tutti dei suoi vecchi, tutti avviciniti, tutti i capi oscillati, per cui, tutto sommato, non è nemmeno colpa del TV, di sul mamma, probabilmente era l'antenna ricevente del televisore che era appunto difettosa, perché non prendeva il massimo segnale, ma l'antenna del baracchino, essendo vicino, andava più forte nel segnale che arrivava da Monteoro, ecco qual era la situazione. Bene, sono andato qua, avanti. Sì, benissimo, ma io non ne voglio neanche parlare. Ok, ci vuole educazione, ripeto, ribadisco nelle cose. Educazione, collaborazione e tutto. Siamo capiti, no, Giulio? Quindi, chiuso il discorso per me. Il resto se li ha creati lui i problemi. Avanti, Gianni. Sì, sì, sì. Vabbè, comunque, rispetto a tanti anni fa, la possibilità che si verifichi una cosa del genere si è abbassata notevolmente. C'è ancora una piccola possibilità, come giustamente stava dicendo Giulio, praticamente succede questo. Non tutti hanno il televisore praticamente col decoder incorporato. Cosa succede? Molti hanno ancora un vecchio televisore analogico con il decoder a monte. I disturbi potrebbero entrare dopo il decoder, non prima, perché che mi risulti già Telici praticamente noi avevamo la postazione del Monte Oro, usciva, noi trasmettevamo un segnale digitale, non un segnale elettrico, e quindi già da qui si capisce che la probabilità di fare TV è molto bassa. Però potrebbe esserci il problema riguardo ancora a delle vecchie utenze, nel senso che c'è molta gente che ancora sta usando vecchi televisori con il decoder, quindi il segnale in frequenza o i disturbi o i vari splatter, come si voglia, possono entrare direttamente nel televisore, non dentro le cose, nel televisore, creando tutta una serie di disturbi. Questo è quello che penso io. Poi, insomma, tutto è discutibile, tutto è, insomma, è verificabile e opinabile. Però, vi ripeto, da quello che so io, e con questo vorrei chiudere l'argomento TVI, non ci dovrebbe essere problemi. Avanti, giù. Sì, appunto, è proprio anche quello, c'è da dire, che ancora esistono quei televisori, soprattutto quelli a tubo cattolico, che hanno le medie frequenze che entrava di tutta la corsia che c'era nell'etere, e dunque è facilissimo che possano anche avere ancora oggi uno di quei televisori, usandolo con decoder, proprio per ricevere il digitale, e allora si potrebbe essere problemi. Appunto, come sto dicendo, sono diverse cose che potrebbero essere dannose a riguardo, però è quello che appunto si fa dicendo. La massima attenzione, la massima prudenza, tranquillo e pacifico, eccetera. Quando sarà di cosa si manca un'altra cosa, questo se lo posso garantire per esperienza, soprattutto le manda il cavo, e dunque ci vuole un cavo che sia a bassissima perdita, perché le interferenze è soprattutto il cavo che le manda. Quando scende il cavo fanno passare lontano magari da una linea telefonica, possibilmente anche lontano dai cavi TV, più lontano possibile, perché più lontano possibile. capito. E mettere l'antenna un po' più alta rispetto a quelle TV. Quella lì è senza radiali, quindi potrebbe essere una soluzione. Vabbè. Già va bene, già va bene. Adesso poi si vedrà già quando sarà il momento vedrai cosa fare, ma sono convintissimo al 100% che vai a nettamente a migliorare e ad avere un segnale equo come tutti, sicuro, con un'ottima ricezione, un'ottima trasmissione, perché se vedi dove è montata quella di Daniele, attaccata alla parete da terra, ancora non ha superato l'ultimo piano, l'ultimo gradino, diciamo, e arriva molto bene, sentono bene, arriva bene, va bene, avanti Giulio, riprendi. Prudenza, tranquillità, il motto è quello. Anche quella persona che ha avuto quella visita appunto da parte del Ragno Escopo, eccetera, secondo me, oltre ad essere strapotente, perché era strapotente tutto sommato, poi aveva permesso di dire parolacce, dunque se tu dici parolacce a quello che si è tenuto in bisogno, se permetti, un fastidio lo darebbe a chiunque, no? Dunque lui non ha saputo gestire la sua situazione, se no avrebbe senz'altro ho sistemato la questione, avrebbe sistemato, e dunque come, magari lui aveva quell'uomo anziano lì che non era in grado, però se questo anziano l'avrebbe saputo prendere alle buone, con la massima educazione, eccetera, e soprattutto senza dire parolacce che quando sentivo nel televisore, io più di una volta gli avevo fatto cevatore, te ricorderai, per cui tu come fai a parlare a Baracchino e entrare in casa del gatto con le tue parolacce, lo so bene, ecco qual è anche il motivo per cui hanno avuto problemi che sono stati sentiti, insomma, che lui adesso è mollato da lì, no? Anche se lui dovesse mettere l'antenna bene, come si deve, sul tetto, sono sicuro che sempre renderanno partito, sempre. Qualche problema a qualcuno adeguato alle interferenze, la colpa tua è per tutta la vita, non c'è rimedio, questo è il contatto. Avanti Gianni. Sì, adesso va bene, volevo passare di pane in tasca, mi è venuta in mente un'immagine, adesso non so se esiste ancora, salendo su al monte a San Francesco praticamente, prima di girare a sinistra c'era una casa sulla destra che aveva una grande direttiva, vi risulta qualcosa? Ma adesso giusto per chiacchierare, no, niente di... mi ricordo che c'era una grande direttiva lì, avete voi anche insomma qualche ricordo in merito? San Francesco stai dicendo, quindi quando esci per via Le Mamili, scendendo per andare via Le Trento lì? No, praticamente per salire su. Non è San Francesco quello è Filighetto. No, Filighetto in alto, non fa. Praticamente superi tutto via Grazia dell'Etta per salire, arrivato praticamente alla zona dove c'è la forestale a sinistra, infatti c'era Marco in direttiva sopra. Sì, lo conosciamo bene, guarda che mi sembra che hai già parlato anche tu o Gianni qualche tempo fa, perché era qui con noi che stavo parlando, magari sono andato a parlare probabilmente, ma forse se l'ha passato per l'attimo anche qua. Quello lì è Marco, un radioamatore quello, Gianni, quello lì è un radioamatore, è una persona abbastanza competente, dunque, ma quello lì è un vecchissimo radioamatore, da tantissimi anni, più di 40 anni, più o meno. Ma lo conosciamo benissimo, non è un problema. Parla sempre con noi, Gianni, parla sempre con lui. Certo, ogni tanto è fatto, ma diciamo che principalmente parla su canale 20 lui, e parla soprattutto con Walter, con Dino, con me, ha parlato anche molto, per cui ci saranno occasioni che presenterai anche tu. Avanti qua. Vabbè, ma stai sbagliando però. 40 anni Radio Mattore non c'è, perché sono entrato nel 92 io, il primo sasso del Walter, 86 lui, penso che sia 88, 89, quindi siamo lì. Ti posso dire che è un vecchio CB, come siamo noi, allora sì, ma Radio Mattore no. Radio Mattore è un 5 anni prima di me, 5-6 anni, non so, io nel 92 sono entrato. Va bene, va bene, va bene, sì, è lì su, pensavo fosse tutta una zona, invece è diverso, una San Francesco, l'altra Fidelito, e vabbè, Struria, canti della lampada by me, boh. Ne riprendi, non avevi altro discorso, va bene. Va bene, facciamo scegliere alla ruota Giulio, dai, avanti Giulio. Ehi, di cosa parliamo? Non lo so, abbiamo parlato di tutto in questi giorni. Di tutto abbiamo parlato in questi giorni. A proposito qua, tornando un attimo per il calcio, il calcio gioca oggi, la Rosaia, dite che decide a farlo giocare di nuovo. Glielo ho visto, glielo ho visto, voglio dire che peglia, così non hai cardi, un problema, è proprio la squadra, capito? No, alle 7 c'è il Napoli, ora già iniziato, sta giocando Empoli-Napoli adesso. Sì, ascolta, stavo pensando, ieri stavo leggendo, sì, ieri, è sul giornale, stavo leggendo che il prezzo suo è calato moltissimo, massimo 60 milioni, e a quanto sembra la Juve dice che era orientata a prendere 50. Ma io spero che non lo prenda la Juve, pensa un po' così. Minuti. Ciao, ciao. Già, Non è poco, anche lì una bella una battuta, eh? E siamo in 7, noi siamo in 40. Quanti siete voi nel palazzo, Claudio? Io non sto parlando di palazzi, io sto parlando di tutto il complesso, questo è un complesso, c'è la scala A, B, C, D, E, F, G, sono 7 scale, dalla torre così chiamata, dalla mia, che è quella dell'esterno, quella si chiama la torre, quindi da 10 piani a scendere, se tu guardi dall'alto, è da 10 piani a scendere sino a 5 piani, anzi a 4 piani. Ci stanno 180 macchine dentro, attenzione, io sto parlando di tutto il complesso, non del mio palazzo, sto parlando di tutto il condominio, questo è un condominio dove addirittura il comune ci ha dato anche la stradina, abbiamo le uscite sulla stradina, quindi è tutto recintato, è una rete di galline, ma è fatto veramente bene. Ci abbiamo la manutenzione della stradina una volta all'anno, infatti l'abbiamo fatta da poco, taglio erba, pulizia e ripristino dei rami e degli alberi che escono al di fuori della stradina per passare le ambulanze, ci sono 4 cancelletti lì, all'altra parte la stessa cosa, tutto il giardino, cioè all'interno è tutto verde, quindi non è questione di palazzo, quindi è anche poco, la nostra fortuna è che siamo tanti, perché tutto il complesso è di 120 persone, capito? Il mio palazzo siamo, fai il conto, sono 9 piani, la mansarda non è abitata perché è la mia, 9 piani, per 2 appartamenti a piano, sono quanto sono? 2, 18, quanto sono? 36. Certo, è ben soltanto, sì, io lo credo. Ancora non ha finito, capito? È tutto asfaltato all'interno con tutti questi autosegnati padronali, non assegnati dal condominio. Questa è la mia casa, ma io ho anche il posto auto che ho pagato 10 milioni e ce l'ho nell'atto, numerato, non si può mettere nessuno lì, è mio. E quindi sono tutti, a parte le altre macchine che sono fuori posteggio, perché c'è talmente posto, capito, che chi ha due macchine come me, io ce le ho tutte e due dentro, capito, perché di posti auto ne ho due di posti auto. Quindi è un complesso grandissimo, non piccolo, ma un ben manno, e la cifra non è tanta, ma ci sono un sacco di cose extra, un be. Quello è l'imbecio fortissimo che ha fatto, mi ha sradicato un albero, è caduto sopra la ringhiera, perché ci sono tutte le ringhiere, tutto, no, a rete di galline, come ti ho detto, ho fatto una barca di soldi. L'assicurazione ha coperto il danno di calamità naturale, bim bum bam, non so come te l'ha fatto andare l'amministratore, ma per comprare le ringhiere nuove le abbiamo messi noi i soldi, ogni danno paghiamo noi perché è tutto nostro, capito? Tutto nostro. L'altro giorno il comune ci ha mandato la spazzatrice addirittura per darci una mano a pulire la stradina dove entrano le ambulanze, perché quello fa parte sempre di questo condomino. Il resto l'abbiamo tutto annettato noi con il coburu, capito? Quindi è grandissimo, lascia perdere. Vai, responsabile della sicurezza, accuati, non sono ripreso. A te, a Vervedesci, vengo di Cedravagliente, attaccato senza il casco, ti mando a casa, hai capito, bello bene? Bello bene, io il casco lo devo avere solo ed esclusivamente se ho il braccio in alto. Io posso scendere anche senza casco, aspetta che io faccio una passa. Rispondi, quello è responsabile della sicurezza. Vabbè, questo è a titolo di cortesia, perché non c'era, quindi mi ha detto se potevo farlo io, siccome l'ha giovato Banni, quindi ma a prescindere da quello non sono cacchi, che interessa a nessuno. È molto grande questo complesso, Giulio. Tu forse sei entrato nel cancelletto e sei salito qua, entra all'interno, ho tenuto la moto dal balcone a vedere quante macchine vi sono posteggiate all'interno. Sì, ho capito qua. Allora, giustamente le spese ci sono, eppure allora non è poi così costoso. 120 euro, vabbè, per chi dice giustamente possono anche essere pesanti. È un complesso dove ti può vivere gente che ha un misero stipendio, ad esempio, tanto per fare un esempio. Bisogna che uno abbia uno stipendio di credito, in modo che si possa permettere almeno di togliere questi 120 euro al mese, e più per le spese extra, che poi ci saranno col passare del tempo. Sai cosa dico? Quando è così qua è anche più difficile. E questo è anche un motivo per ancora non sei riuscito a vendere questa casa. Questa è anche una ragione validissima per chi deve comprare. Dici, ma io mi sto imbarcando in questo complesso qua, perché quello si informa, si sa, tutti si informano prima di comprare un appartamento. E se va a pagare questo tutti i mesi, ma siamo in grado di poter affrontare lui. Insomma, non è un posto dove si può vivere un piccolo pallino qualsiasi, bisogna che uno lo sia tranquillo, almeno economicamente, se no non c'è niente da fare. Ecco, questa è una delle ragioni per cui ancora non si è riuscito a vendere, io penso che sia così. Avanti Franco. Sì. Io ho pensato che avevo solo appartamento e pagato solo per lui l'appartamento. No, però è tutto quello che ho detto, polemica tanto, dai. Che sia tanti del palazzo viene molto più leggero. Molto più leggero viene, sì. Già ce n'è che non pagano neanche, non ti preoccupare, l'amministratore è anche troppo bravo questo, però sta già iniziando a fare atti e ingiunzioni di pagamento, perché c'è molta gente che non paga, giustamente come dice Giulio, gente che non ce la fa, però il condominio è legge, il condominio va a pagare, il condominio ormai ha statuto del tribunale, se non paga il condominio condominio era a gas, forse non l'ho preso. Prima il condominio era a livello, ehi, non ce li ho, te lo do il prossimo mese, no. Adesso c'è la legge condominiale, prima l'amministratore del condominio poteva fare chiunque, ho fatto io, siete una futti. Adesso devi avere il titolo, devi essere un geometra, devi essere abilitato, devi aver fatto i corsi di aggiornamento, perché qua gestisci, ci sono 8 caldaie qua, 7 caldaie ci sono, e tutte a gas, prima eravamo a gasolio, adesso siamo passati con la Marea ci ha cambiato tutte le, ci ha messo praticamente il trasformatore da gasolio a gas. Quindi c'è l'impianto del gas, ci sono i serbatoi del gas, c'è... Tutto dice, noi ci sono 6 imprese che lavorano in tutto il condominio, ma buffonendoci, giù. Quelli delle pulizie vengono 3 volte alla settimana, il lunedì, mercoledì e venerdì. Non si ride, ma se no quando vedi in opera i giardinieri, in 5 sono, quindi è grande. Chi taglia l'erba, chi porta le aiuole, tutti i cipressi, perché tutto ci sono. L'interno è molto bello, non è brutto, molto molto bello. C'è molto verde, alberi, fiori, di tutto, è curato moltissimo. E poi c'hanno quell'affare che adesso hanno inventato per le foglie, le soffiano, le ammucchiano tutto un angolo, con la busta, il raccolto, che sale non c'è un pezzo di carta per terra, è curato veramente. Però, e vabbè, conta due, sono dall'87, no, io Balendi, prima abbiamo iniziato con 70 euro mi pare, o 60 euro, no, in lire era a borso, 35.000 lire forse, una cosa del genere, siamo arrivati a 120 euro, e anche in quegli anni 35.000 lire volevano tolte, erano soldi, quindi proprio perché il complesso è grande. Massimilia, vuoi riprendere? No, è al telefono, riprendi tu, Giulio. Ok, sì, io lo so. Allora, il mio cliente ha fatto bene ad andare da lì, nonostante che gli stipendi di quelli erano alti, perché mai sua moglie, tutti e due dottori, che lavoravano alla civile, adesso lui è in pensione e lui ancora no. Si è rientrato? telefono, vuol dire fatemi vedere. Tutto il telefono, Gio. Sì, ma guarda che la risposta mi hanno già dato a me. Non è che qualcuno, infatti, dice condominio, c'è sì. E quant'è? Guarda, all'incirca dipende da millesimi, perché sono appartamenti più piccoli, appartamenti più grandi, quindi varia. Questo appartamento, che è uno dei più grandi, 120 euro, madonna, e adesso vedo perché il mutuo mi danno non so che cosa, fai du, se ti conviene lo fai, se non ti conviene non lo fai, non c'è niente da fare, è chiaro che... Devi bilanciarti, perché quelli devi togliere tutti i mesi, non è che un mese sì, un mese no, senza poi le cose extra che ci sono, sono lavori straordinari, sono lavori ordinari, cose che l'amministratore decide e deliberiamo noi se farle o non farle, capito? Ultimamente abbiamo fatto le tristi, no? Marciapiede del cancello del Passo Carraio, abbiamo messo i soldi noi, tutto il marciapiede nuovo, perché il Passo Carraio mica te lo fa il comune, quello è il passo tuo, ci passi tu con la macchina, tu fai il danno delle mattonelle e tu lo devi riparare, così abbiamo fatto tante cose che fanno parte di chi abita in condominio, è inutile che stiamo a dire, poi c'è quello che del condominio ne ha fatti nulla e non paga, e quelli vanno castagnati, perché se non paga uno a fine anno, quando c'è il conguaglio, lo paghiamo noi, capito? E queste sono cose che a me mi girano le scatole. Eccomi. Sì, ma è così, sicuramente è così, non ci sono numeri, per cui lo sappiamo che funziona così, però prima o poi sono costretti a pagare, però oggi sono le leggi, oggi i condomini dopo i 4, no, dopo i 7 inquilini in palazzo, o è obbligatorio essere iscritti e avranno scritto nel registro, no, è tutto si fa, ormai tutto, poi l'amministratore deve essere anche laureato, non nemmeno diplomato, non basta più nemmeno il diploma, deve essere laureato per poter fare l'amministratore. È una cosa con un salto di legge, no? E non si sfugge. E dunque una famiglia che abita in un palazzo così deve pagare a Maragana, perché se no prima o poi arriva l'inclusione e dice questo non ti bloccano l'appartamento, no? Non si sfugge, ormai funziona così. Chi è che voleva entrare avanti? Rieccomi, sono rientrato, ho sentito un tedesco sotto prima che entrasse Giulio. Chi era quell'altro? C'è un altro che ha parlato, avanti, dopo 3 anni, chi era l'altro? Cos'è che vuoi e nulla a me? A te annulla, sono in FM questi, a te annulla che non comprendo un accidente, io attacco la radio Siria che sta arrivando a livello agli olio. Ok, adesso bene mi ascolti. Allora lascia stare agganciato, e ti copre in FM, arriva Santiago Otto. Fra poco non tengo più a Gianni e fra poco non tengo manco più a te. Cazzo, dai. Perché anche ti ha coperto poco fa. Va bene, dai, adesso mi dovresti ascoltare. Se copre a me già possiamo entrare, io non ho problema. Io sono con 10 watt, 20 watt modulati. Posso metterlo anche a 50 watt, te. Ecco qua, 50 watt, 60 watt, dai, avanti. Ecco, così evitiamo i problemi. Ok, avanti Gianni, riprendi. Ehi, adesso non so se ho sentito parlare tedesco o inglese, vabbè, comunque, qua è... ogni tanto arriva forte. Quello che ti diceva Massimiliano l'altro giorno, capito? Sono queste aperture di propagazione che sono pericolose, perché arrivano fortissimi, poi se ne vanno in FM e quindi si splatterano a tutto andare, capito? Se non hai antenna e potenza, ravvini, buono, non ti ascolta manco i sassari, è lì il problema. Va bene, Fra, comunque ho tirato un po' più su, dai, adesso già me lo dovresti sentire. Mi ha in FM, Aspetta un attimino, sì. Guarda un francese. Chi è? Ecco. Ma io passo al canale 11, che qua ci sono due tedeschi che ci stanno ammazzando. Se non sentiamo a Gianni. Ah, così è. Ehi, va laggiù, attacca a dire. Oh, non c'è più nessuno, dai, passate al canale 10. Ehi, ci sono le bande laterali anche qua, qua. Cosa? Ma c'è gente anche in banda qua. Io poi propagazione c'è, ma non dà fastidio, eh. Ma quelli là arrivavano fortissimi e mi coprivano a Gianni, eh. Fate girare che ascolto questo audio, vai, un attimino. No, io ero un po' assente, ci sei tu, Gianni, Giulio, e poi è entrato qualcun altro? E Franco c'è. Chi? Franco. Ah, ok, va bene, ciao Franco, buonasera, ben ascoltato. Io già qui, ma c'avevo la bassa in corso, va? Capo. Bene, caspita, come arrivavano quelli, non erano tedeschi, erano tutti, avanti giù. Ok, già arrivavano bene, altro che. Te ne mangi, ne vado a vedere, ma facessi sta con la bombola sotto le piazze, quello lì. Adesso mi voglio una cremusata, come se gli c'è stata lì. Allora inizio, ma ti vediamo. I cani si mangiano. A vedere se si rammenta, vuol dire che ha mangiato roba buona. Vabbè, meglio così. Io oltre a quello sentivo anche un'altra portante sopra che ogni tanto sovramodulava Claudio, non so se era lo stesso, comunque mi sembrava un altro segnale comunque. Va bene, dai, avanti Fra. Claudio è al telefono. Hai capito giusto, veramente a Claudio. Italiano cartoffel. Come dava, vuol dire singadura. Ma Claudio, capita Claudio, me lo scambio, non lo voleva fare quello. A lui fa tacciuta con le bombole, e a te fa tatto. Capita metà differenza. Ma te ne immagini, un massimo. Devo scegliere la passaggiuta con le bombole, Ma infatti l'avevo già detto io, tu cartoffel, io pasta asciutta di olio, Thomas, va bene, comunque dai, già sono spostati, avanti Gianni, riprendi tu e fai girare. Il segnale, l'hai letto anche tu il segnale, quindi erano abbastanza forti. Comunque non c'era solo lui, c'era anche altra gente, mi confermi qua? Cosa già? Che Tom non era da solo, c'era altra gente comunque con lui. Sì, stava parlando con un altro. Due tedeschi sono, però già parlavo anche l'inglese. Va bene. Già mai compreso comunque, è già mai inteso, che ha già stato appena al volume, capito mi hai? Avevo in bacio un macchini, italiano cartoffo, cazzo cartoffo a me. A me è mai piatto il battato, ma mangia di un duca è meglio. Ascolta tu la prossima volta, prima di passare le ferie, avvisami, tu mi devi venire giù e a Tegola. Se non mi faccio mai con lo smicelli, dove sei stata per la rivendi, ma pure così. Non lo fare più mica. Prima avvisami che io a te non diventi di me, così almeno non mi rovini lo smicelli. Solamente il cazzo di dito. A te, non a Giulio. Ha girato appena di casa, ho visto l'atti 203, perché in scala 200 arrivi dal massimo, e se no non mi sentivo, capito? Prossima volta ti avviso. Vai Fra. Se lo può fare, non stai succiando ogni tanto, perché erano più corti, prendiamo a bomba io. Non fare lo stupido, la T230, quasi, senti. E cos'è che fai? Ma con me dove hai oggi, eh? La stamattina, cazzo, ti sto assillando. Sì, anche qua rimangono 9 più 20. E anche qua, però. Sì, ma questa è una radiosiglia, però, no, un GPT uscito. Ma infatti, lo so che tu c'è radiosiglia. Così è fa. Eh, tanto bisogna dare un colpo al martello e all'incudine. Cacciavo i buoni all'incudine a me. Questi guardiani di vici, una curvata. Scusa, non venite da cui l'incudine, proprio a me da cui l'incudine. Maledetto. Seriato, niente sei giù. E dove fai bene, ovvio. Maximiliano, io questo baracchino c'ho questo devo usare. Certo non sono i miei purtroppo. Devo tornare al padrone. Maximiliano, guarda che tutti gli fanno male, che vecchio adesso lui. Io mi sono avvisato, sì, puzzinoso. Allora, oia. Gianni, un bel da niente hai fatto me. Ah, ti pulisci il cabigiano, altro il baracchino, ma senti. Non c'è più rispetto manco per gli anziani qua. Crocro. vabbè, adesso sicuramente perché sono arrivati quei due a gettare scompiglio, poi già si mette tutto a posto. Vecchio. Vabbè, giovane, è grosso. Buonasera. Ciao Matteotti. Aspetta che sto collegando una radio, se no non fa, aspetta, a dopo. Un altro mi... Guarda la mia radio, va. Per carità, Giulio. Ma è possibile che siamo tutti altri malati? Ancora, non abbiamo un po' con il radio. Sta collegando la radio, ma ecco cosa state parlando, sì. Non state parlando con la radio, è anche molto bella. Noi che siamo alla sera tutte quante, non è possibile. Fatemi già, ma quando parla stai usando? È sempre la solita, ciao a tutti, non so chi ci sia, ho sentito che c'è Massimiliano, poi Gianni se non mi sbaglio, Claudio e Giulio, non so se ce ne sono altri. È Franco da sotto. Ah Franco, non lo sento che è basso. Ah ecco, per quello che non lo senti, ho capito, beh allora hai ragione, allora sono mando avanti così lo saluti, va. Avanti fra, dai, ti sei considerato che non ti sente fino l'altri. Ma te ne immagino fra, ti stai sottovalutando. Perché sono piccolino e per quello che non mi sente, sì. Dunque, ciao Fino. Ciao fra, piccolo, basso e nero. Va bene, come questa radio? Normale, credo, vero? Normalissima. Ma buona. Normale, ma 5, va bene. Bella, oggi tu dico io, bella. Va bene, a pochi watt, quindi liscia, è un vintage. Perfetta, guarda, una bellissima modulazione, così chiara, pulita, senza nessun rumore sottofondo. Cos'è Giulio che mi stava dicendo? Stai usando quadribanda, se ce l'hai ancora quadribanda. No, il mio quadribanda è andato a finire in Olanda. Che pagate ce l'hai? Vabbè, ma dove? Ho ben sentito, 9.10 e oscillante a 20 in radio 5. Sì, addirittura, guarda che sinceramente sono 4 watt naturale, primo pelo, quindi nuovo. Santiago, 9.10 oscillante a 20 con radio 5. Adesso ho aggiustato lo splitter e ti posso dare un referto più preciso. Bene, sono contento, dai, vuol dire che già sta andando bene. Va bene. Ma per 15 pieno qua, vabbè, figurati, a voglia se va bene, alla grande, se va che... Vabbè, però poi non si sente, ma vedi un po', cerca di qualche rimedio, Tino, perché Franco non si sente, vai Franco! Sì, deve fare qualcosa, deve fare. Cosa vuoi fare? È un duato di Nintendo, che mai? Sì, sei in mezzo a quel reme, fra. Io non sono in mezzo a quel reme, dai, guarda bene. No, non svegliate il cane che dorme. Ehi, bau bau, uia, cro cro. Già è bau bau, che andrò in bocca la musciarura, la buia diventa amaro. La giungo la barriera sotto. Sì, ma sono accorti, da 7 si è passato a 9, non ti preoccupare, ma lasciate i cani che stanno dormendo, tranquilli, che hanno una giugana di fricca correnti, io basta fatto la macchina di vostro. Sì, ma so, so tu non ci arrivi bene però. Tu dici non ci arrivo bene io. Tu fai bene Alghero, mi, e bu. E infatti, bravo, ha detto la parola giusta, lui per Alghero è buono, però per tutta l'altra parte della costa, Claudio Sparviero non è che sia proprio una cosa che ti è stata l'augurio. Infatti la Sardegna è divisa in tre parti, come diceva Marco 131, due sono le mie e una è la vostra. Vai, fedevi un brodo, tutte e tre, vai. Arrividi a Sciuscio, arrividi e in Costa Smeralda me la futta sei a me. Proviamo Porto Torres, proviamo da tutte le parti, anche dentro Sassari. Perché sono qua, ecco, un po' di prove le abbiamo fatte, devo essere sincero. Allora, in FM parlo, sono arrivato a Santa Teresa di Gallura, da qua, e parlavo con quel Cristian, non so se te lo ricordi, quello che poi mi ha dato quel 140, ti ricordi? E poi invece totalmente dall'altra parte, verso, diciamo, Molotta, Daniele, motrice Patria, mi ha ascoltato fino a Cuglieri, poi più lontano non lo so, però mi va bene, abbastanza copre una bella zona. Sono zone limitrofe quelle. Quando tu parli in diretta qua nel canale 10 con camionisti che sono uno dietro l'altro, nella piana di Campeda non si sentono uno con l'altro, allora tu sei forte. Comunque io ve l'avrei fatto la vergogna qua. Tutti ti hanno passato, tutti. Beh, vuol dire che sono più forti. Ma tu avevi messo che provendo il gatto lineare e arrivi a Sosso, mi l'ha bruciato, puro. Vai, fate un brodo, vai. Vai, non avete mai bruciato non da nessuno, c'è tu, provalo con questo baracchino. Un baracchino giù, io lineare di giù, prova, fischia, ha già bruciato da zia 30 watt il suo baracchino. No, il baracchino era tuo, il lineare che era il mio. Infatti, uia. Accorti, gente, lasciatemi stare testa sana a me, mica poi vi faccio la bubua. Claudio, ma in fase calante sì, questo periodo, tutti si sorpassano, tutti si sovrappongono, bubu. Io adesso in vatti a Giovanda, e buh, me la futti nuda a me di lastri. Però lasciatemi stare con la testa a posto. Momenti. Dai, rimettiamo le cose in ordine, là. Avanti, Rubio Fè, all'interno di tutti i figli, eh? Lamburoso, a mai sono tutto. Ma allora c'è un conflitto tra Tino e Franco, non ci occupa di nulla. No, poi sono tutti i 5 watt, ecco. Sì, te l'ho convinto, io sono convinto, è diverso. Franco ci mette solo due a tutti, La torre di controllo li ne farà toccato mezza torre. Dai, ogni tanto ci vuole a scherzare, sennò lui è. Franco si è spostato, per quello sto parlando male lui. Sta parlando secondo loro a Claudio. No, già ha parlato sopra di Claudio, ha detto un attimino di bianco per me, e è passato sopra. Bascia sopra, bascia, e te bascia Giovannino Appioli, ti bascia. Claudio, non puoi competere, a parità. E con chi è che non posso competere? Con Massimiliano? Sono vero, capito. Quindi, com'è la situazione? Tu sei il 22. Ciao, Clan. Oia, e cura a te, cura. Non so se giuro, poi va a vedappalo. Anche tiro ti passa con 4 watt. E ho 4 watt, io aumenta qua. Aumenta. Allora l'avete passato tutti e tre poco fa. Grazie, lo godo, voi sono da tutto. Allora che ti vuole dire, basta, aumenta. Mamma mia, l'avete provocata, adesso scalda il braciere. banca. Appena. Allora, vabbè, ogni tanto bisogna scherzare anche, dai. Così ci divertiamo. Ma non avevamo argomenti oggi, no? E dunque adesso ce ne siamo, stiamo inventando. Sei Rottino. Sarebbe se che giocando dentro al cacchio di uno d'Alghero, sì. Una mincia fa vedere. Oh, aia. Parla bene, ad Alghero ti faccio una pezzi. Alghero, a te ti posso, vai per peri. Eppure a Portogallo ti posso, vai per peri. Gli altri intendono fa vedere come Eugenio o un cacchetuno. A poi te ne do io la gazzosa. E vuol dire attacco un altro. E poi attacca chi ci intibbiate, io non attacco un giuro, però. Senza nemmeno attaccare, baida. Ah, sai, ti incrocio, va vedendo dove arrivo meglio io che ti faccio bello. A te e a tutte e tre. Non svegliarmi. Non svegliare, Claudio. Claudio, fammi aprire la scatola. Apri la scatola. Apri la scatola, che già lo sai. Lo sai che già è puro. Lo già faccio pure io, non ti preoccupare. Ma già lo sai che è piccolino quello. Piccolino è, per Alghero non ho bisogno manco di attaccare. Tu mi puoi attaccare 600, ti bacio con 50 watt. Vai. Beh, esci di me da un'anca, vado a portare il cane, ciao. Spicco! Mi hai fatto arrabbiare, là. Bella questa, ragazzi. Sono fatto schiappe, tutte quante sono fatto. Cazzo, l'avete fatto schiattare, vieni qua. C'è Filippo che lo dice, sta leccando, andare a portarlo a fare la caccia. No, non mi sta leccando nessuno, mi avete leccato un'altra cosa, ciao, e non c'entro più. Io non sono entrato a baffagare con nessuno, ciao. Ah, ma già, io fare così, cazzo, mamma mia. Ciao, io già l'ho abbassato, vieni. Oh, c'è un friso, va a me, fatta a me. Aspetta che lo chiamo, cazzo, al telefono, se no. Io, va bene, là. Va bene, sì, 25 Tino e 30 Franco. Ma io sono leggero veramente. Sì, vabbè, anch'io sono leggero, sono proprio sgabello. No, credimi, sono un impatto normale dell'apparato. Sì, positivo, va bene, vabbè, Franco sta usando una cosa diversa, che va bene così. Gianni! Franco, mi attacco. No, sono staccato. Senti che gli arrivo qua. Sì, infatti. Mica ti sparo da qua, mica vedo la tua finestra. Non guardi di nuovo fuori lì. Cacchio, sono tu terra, lì, non a me. C'è l'altro palazzo, la valla. Sì, a faccia la valla. Allora, che non guarda come entrati in città? Scherzando. Vabbè, io ve lo sento nel sorso da qua. Tu sei invece... che zona senti? Periferia, Latte Dolce. Latte Dolce? In periferia, più avanti, verso Patamoa. Ah, ho capito, allora c'è... Ecco, l'ho fatto! Sì, giù. Ecco, provate su. Ridono. Dove c'è Agic? Dalla zona lì. Va bene. Ehi, Giulio può competere con me perché io sto usando un watt di radio con 25-26 modulati, no? Altrettanto io di meno. Un watt con modulati saranno 18-20, non di più. Ma io adesso mi ho chiuso, sono a 3 watt. La gola. No, va bene. Adesso mi ho chiuso, sì. Sono al minimo della potenza della radio, sì, vabbè, ma più o meno diciamo che ci ascoltiamo bene quasi tutti, dai. Adesso si sistema un po' Gianni Lubraffetta, mette l'antenna come si deve, la radio un po' migliore, vedrai se aggiusta anche lui. Poi il resto diciamo che meglio o male ci ascoltiamo quasi tutti, dai. Sì, e poi siamo in una zona tutti quanti più o meno che ci ascoltiamo benissimo. Siamo tutti favorevoli l'uno all'altro, per cui non ci sono problemi non ascoltarsi. Io, quanto ti faccio io, o 10 watt o Massimiliano? C'è bisogno di dirlo, vuoi che te lo dica? Dillo se me lo vuoi dire. Sì, più avanti dello 0, del 30, capito? Addirittura! È un bel brinco, eh! E se dovessi mettere anche un altro posto, allora sarei ancora meglio! Beh, oddio, noi siamo a 2 km, non è che siamo molto lontani. Quello è vero. La porta per noi sembra aperta, anche quando è chiusa, la dobbiamo andare, con la serratura dobbiamo andare. Va bene, facciamo parlare anche a Gianni. Gianni, avanti. Eia, eia, ho visto che piano piano prendono dalla confusione. Adesso vediamo se Claudio rientra, boh, l'avete fatto incazzare. Oh, boh. Va bene, ogni tanto un po' di ciofra già va bene anche qua, quindi va bene tutto. Comunque Bertino ha migliorato tantissimo il segnale, adesso non so che baracchino sta usando, comunque qua arrivi forte, la radio è la radio 5 e Santiago 9.10 oscillante a 20. No, io ho sempre la classica, dai, la classica. Senza essere attaccato, KK, va bene, bene Mela. Ho visto che Franco è tornato a miti consigli. Vero Fra, è staccato la tuffa. E ha acceso il condizionatore adesso. No, ma non si è arrabbiato proprio, Gianni, non c'è per niente arrabbiato. E dovevo portare cane, era già in ritardo, capito? E dunque, con le chiacche si è spiegato l'orario. Siccome il cane ha bisogno massimo. Io lo passo. No, è andato via per quello, no? Non per il arrabbiato, no, non ho più il arrabbiato, manco una soglia, così questi se lo cocchi, è un durale, lui, quello va a già. No, non si è arrabbiato, perché ogni tanto già fa bene a fare un po' di casino, già va bene anche per movimentare un po' il canale, io non canto sempre la stessa musica. Oh, Massimiliano. Dimmi. Guarda, mi distorcevo la radio, però voglio fare una prova. Se è impossibilità di guardarmi il segnale. Sì, vai. Guarda un attimino, Vediamo se ho aumentato appena, poi mi dici se cambia la radio. Sì, la radio ha aumentato parecchio, fai da 25 a 30 pieno, la lancetta si ferma quasi alla fine dello zero. Ma quasi torce la radio? Leggermente te la mangio, ma proprio un'idea. Addirittura, allora la sua musica. Così è buona la radio, se è agganciato già si sente. Così è bassa potenza, vedi un po', guarda, bassa potenza, Tieni presente che l'ho appena acceso, quindi deve ancora scaldare e fare un pochino. Così è buona la radio, va bene. È un po' saturina, A noi mi arrivo con lo scala. Per quello è stato, perché noi siamo troppo vicino qua. Magari da lì Forse per quello. Siamo troppo vicini. Gianni. Quanto è aumentato di 10? Così di 10. E ora? E poi si è cambiato la radio anche. Se posso fare qualcosa per... non lo so, volete voi. La radio sta un po' grattando. Non è pulita come prima, il segnale è aumentato di 10, però la radio non è più pulita come prima. No, perché è aumentato ancora un altro pelino. E allora, guarda, adesso diciamo che siamo intorno ai 4 euro neanche. Dai, 90 circa, dai, niente di più. 9,22 qua, sì, no, 9 più 22. Però si sporca la radio, vero? Ma è comprensibilissimo, appena però, che può andare anche così, il problema non ce ne sono. È una cosa proprio invisibile, per lo meno la mia risposta. Forse con Franco magari la sente di più perché c'è in linea diretta lì, non c'è nessuno davanti, non ci sono case, non c'è niente. Forse lui ci potrà dire leggermente un pochino più pressante, diciamo, come cosa, come modulazione. Però è buona lo stesso, anche se un pochino si tende a troppare, però non più di tanto, è poi quella cosa minimissima, che va bene lo stesso. Sì, no. Guarda, ho provato a passare, dopo ti lancio a te, ho provato a passare con l'amplificazione e ho aumentato di watt. Come va di torcere così. No, così è brutta. Ah, allora era così poc'anzi, eh. Guarda, allora tre, prova. Ecco, così hai migliorato molto. Giusto, me ne conferma. Alza ancora un pochino la amplificazione, non di più perché magari poi si torce troppo. No, io avrei abbassato leggermente un pochino, un pelino ancora, non il microfono, ma il mic gain della radio. Eccola qua. Questo detto, questo fatto. Voi vedete se grazie ancora o meno. Insomma, allora, aspetta un attimino. Guarda, secondo me la modulazione è già quasi buona, dovresti ancora un pelino abbassare, mi chiede la radio, secondo me è perfetta, Giulio. Confermo, confermo quello che stai dicendo tu, Massimo, sì, fai così come stai detto Massimo, abbassa un pochino appena appena e sicuramente è perfetta. Ecco qua, fatto un altro posto, devo abbassare l'intero, così almeno mi segna la posizione di come dovrebbe andare, se non distorce, se non dà fastidio. Tu volevo sentire anche Franco, perché Franco, essendo più vicino di voi, magari la sente molto più in saturazione, capito? Vedi un po'. No, ascolta, allora la radio non è satura, è molto forte, capito? Io non so, avrei abbassato anche un pelo ancora il microfono. Eccolo qua, abbassato. Guarda, adesso per dirlo a te è come lo utilizzo sempre, ma posso passare anche di una pacchetta. Vedi se ha cambiato qualcosa. Sì, secondo me così è buonissima la radio, per me, come ti ascolto io. Sì, confermo, è buona, sì, è buona. Però Martino, devo parlarti ancora un pochino dal microfono, vediamo se c'è differenza. Devo abbassare ancora? No, allontanarti tu volevo dire, non abbassare, allontanarti tu dal microfono un pochino. Giù, fra un po' il braccio mi si allunga di 2 metri, sono tutto braccio stretto, e sto parlando di fianco, praticamente ho il microfono di fianco, sto guardando il PC, la radio al mio fianco. Buona, buona, oh Dio, buona, dai, la prolunga se dovresti mettermi nelle braccia. Sì, no, ma è buono, dai, va bene, sì, non c'è problema. Avanti, Gianni. Sì, l'ultimo passaggio anche io confermo, la radio ha migliorato tantissimo, 9.20 e radio 5. Non ce n'è, c'ho troppo orecchio, cazzo. Aspetta, ma si vede, guarda un attimino, adesso lo metto in stand by, che nel frattempo però parlo e mi dici se cambia qualche cosa, sicuramente sì, perché la radio è meno compressa. Sì, è cambiato il segnale e la radio rimane buona uguale. Quando aggancio rimane più forte, giustamente perché è così, però la radio è buona anche sia agganciato che agganciato in questo passaggio. Vabbè, ma se tu la vuoi buona, cioè nel senso si nota il cambiamento, però aumentando magari così il mic ritorna come era presso a poco, come era prima. No, ma io non avrei proprio toccato il mic gain, perché è buono anche lasciandolo così com'era. Ma poi mi sgrida Claudio, il mic gain vuole sempre a manetta, mi sgrida. Non è detto, perché io questa radio lo so, ce l'ho all'una, capito? Io ce l'ho alle ore 1. Se dovessi aumentare ancora diventa troppo forte e brutta. È brutta perché da quanto è forte diventa anche brutta. Va bene, no, però lo voglio tenere, così va bene, mi confermi che va bene. Così va benissimo, allora aggancialo in questo passaggio, vediamo un po'. Ecco, così è agganciata, però tieni presente che non è caldo, solo giusto 5 minuti, e magari sai valvolare come sono, no? Più scalda, più pompa. Io da parte mia è ottima, sia sganciato che agganciato, in questo passaggio così come ce l'hai. Vediamo Giulio che sarà usando una cosa più professionale di questa, vediamo un po'. È perfetta, Tino, è perfetta. Tu pensa che senza accorgermi ero fuori onda di 10 Hz, ero, e ti sentivo chiaro lo stesso. Poi adesso mi sono centrato a 75, perché come ho toccato, siccome sono andato a sintonia continua, mi sono spostato di 10 Hz, me ne sono accorto dopo. Ma la radio era perfetta, prima era perfetta anche adesso che è centratissimo. Adesso d'onda io. Figurati, per dirti, no, per farti capire che prima, nonostante i 10 Hz di differenza che io ero spostato in alto, non in basso, ma in alto, ti sentivo bene lo stesso, molto bene. Allora, tenete presente che in 5 apparati che ho provato questo amplificatore, in questo non l'avevo mai provato perché avevo attaccato l'M200, lo conosceva una siberiana, ma chi ve lo fa fare attaccare quello? Perché tutti gli altri mi andavano in saturazione, ecco perché non ho voluto provare. Oggi mi è venuto l'impeto di staccare uno e attaccare l'altro. Se mi confermate che la radio non distorce, non dà fastidio, va bene, diciamo che ho trovato un compromesso tra amplificatore, microfono e radio. E allora lasciamo così, dai. Ma io ti confermo, poi Tino lo sai che ognuno ti ascolta con un radio diverso e ti dà pareri diversi. Io ti ascolto bene così, sia attaccato che sganciato, ti ascolto perfettamente bene. Poi io non so, giustamente ascoltiamo con un radio totalmente diverso ognuno di noi e quindi ognuno ti dà il suo parere, però per me questo abbinamento va benissimo, per me. Giulio mi sa che ti ha dato lo stesso che va bene, Gianni uguale, Gianni cosa dici? Confermo sia quello che hai detto tu che quello che hai detto Giulio, confermo al 100%, quindi per me va bene così. E stai utilizzando un 48? No, io c'ho un reperto storico. Guarda, i muletti sono meglio di quelli di oggi, quindi fidati. No, guarda, qua arrivi benissimo, 9.20, adesso è la radio 5, anche il passaggio che hai fatto prima, non so se magari hai calato un po' di potenza, comunque cioè, arrivi qua forte con la radio, è precisa e va tutto bene, dai. Va bene, allora confermato, vuol dire che tocca spostare un po' di radio, però ho fatto l'abbinamento, anzi avete fatto, perché le orecchie sono le vostre, avete fatto l'abbinamento che meglio mi si addice. Sì, va bene, il radio sono i due, come sta poi in ricattola come ti ho fatto io? Ne ho tre scatole buttate dentro un pollaio, vabbè, si è chiuso, ma... Lo so, ma guarda, io ti ripeto, non so se te l'ha detto, guarda, sto cercando qualcosa di un pochino più soft, più, non so, mi hai capito, no? Sì, va bene, non è un problema, ti ripeto che radio ne ho un bel, troppi, per i miei gusti è troppe, perché tanto poi alla fine io sono sempre del parere, no? Quando esci con una radio bene che trovi il suo abbinamento, boh, devi trattare chi se passa, tanto sai, un giorno con uno, un giorno con l'altro, un giorno con l'altro, e quello ti dice, e sai, tutti i giorni provando, quindi alla fine ti tieni una radio dove esci bene, boh, ti tieni quella e sei a posto. D'accordo, però tu sai che io ho anche l'altra, la linea, mi interessa sia una che l'altra, questa se c'è qualcuno che è perché a me mi fa 10-0, perché Splatter ne prende trucchi questo, però è una bella radio, in confronto all'altra che Splatter ti fa mettere anche a canale a fianco non mi fa niente. Come ho fatto io, adesso uso sempre questa e basta, anche perché prima la usavo poco questa, e dunque usavo più Baracchini e lasciavo indietro questa, e cosa è successo? È successo che poi l'ho dovuto fare il visionale, perché appunto mi faceva i difetti dei puntini, e che ti puoi immaginare, oddio, per quello, no, te lo sto dicendo, non trascurare però il 440, perché quello se non lasci troppo tempo senso, o accendo almeno se non lascio tutti i giorni, perché se no alla fine che ha fatto il mio, l'ho dovuto fare il visionale. Ok, Tiri, quindi? No, ma io non lo sto lasciando, io anche se non lo utilizzo lo accendo, ogni tanto faccio un giro di tutte le cose che bisogna fare per poterlo, insomma, manovrare un pochino, no. E poi vabbè, lo devo far recuperare perché anche lui ha bisogno di una rinfrescata, ma niente di che, sto aspettando un pezzo, nel frattempo utilizzo questa e diciamo che mi va bene così. Va bene, sono contento, dai, perché stavo quasi per scendercelo in un certo posto dove attiviarlo lì come museo, come radio da museo, diciamo. Ok, come ho fatto io, con altre cose, sì, che le ho compresse in tutta la parte, per cui no. Poi questo fatto di stare sempre cambiando mi incontravo, anche perché nel posto dove ero io la stazione c'è il tavolino, il piccolino, no? Prima ne avevo quattro, ne avevo il tavolino, l'altro trovato giusto, e mi sono tenuto questo, per cui va bene così, sì, no, ma è così, bisogna fare così. Bene, sì, perché ma non ti attendono, fanno muovere anche un po' il potenziale di tutto mio ottino del 440, soprattutto la cosa dell'antenna, soprattutto quando farò girare un po' di volte il volo, perché se no si blocca, è un problema, già lo sai, queste radio qua sono vintage e dunque è sarebbe un peccato lasciarli decadere così magari. La testa di non usarle frequentemente, quello che intendevo dire, sì. Ok, avanti Massimiliano. Sì, dai, grazie per avermi ripreso, io però mi allontano che mi hanno chiamato giù per la cena e devo lasciare, no? Vi saluto, buona serata, buona continuazione e a domani se coincide, eh? Buona serata a tutti. Va bene, dai, riprendo io che anch'io mi devo spostare e poi magari se coincide a dopo, se ne avete voglia, dopo mangiato, una chiacchierata già me la rifaccio un pochino, giusto per non succedere, vediamo un po' se cambia, se migliora o peggiora, così almeno vado qua ancora. Ok, grazie per i controlli, grazie di tutto, rilancio il mic a Giulio, aspetto il finale e poi vado via, dai. Ok, ciao Tino, allora, ciao Massimiliano, grazie della compagnia ad entrambi, ci sentiamo eventualmente domani, sperando che coincida appunto il nostro tempo libero per metterci in radio. Ok, avanti Gianni, per i saluti agli amici, dai. Salutoni a Massi e a Tino e a Franco, se in ascolto. Mi sa che questa è l'ora giusta per sgranocchiare qualcosa in giù, quindi ho visto che sono le 8:30 più o meno, quindi mi sa che magari facciamo gruppo e aggiorniamo, quindi mi sa che anche io faccio QRT, magari accendo dopo, vediamo un po' se c'è qualcuno, magari un'altra chiacchierata già si fa volentieri. Ok Giù, dai, saluto neanche a te comunque, dai, casomai prova ad accedere dopo, vediamo un po' se ci si ritrova, ok? Innanzitutto vai, comunque, buon proseguimento a tutti, dai, buon proseguimento di serata, ok? Ok Gianni, ciao, grazie anche a te per la chiacchierata, dai, tutti, ci sentiamo eventualmente domani, ciao a tutti. Ciao, ci sentiamo. Ciao Tino, ciao Massimiliano. Anche tu stai chiudendo? Sì, fra. Va bene, ancora qualche passaggio già lo posso fare. Ancora la cena non è tolta, per cui se tu stai chiudendo non lo so. Però se stai chiudendo chiudiamo e basta, ma se ti aspetta. No, forse 5-10 minuti ancora io penso di avere il tempo. Franco, ti stavo chiamando poc'anzi ma non c'è, mi ha detto che ti sei allontanato. Com'è la radio dalle tue parti? Buona, poco fa all'inizio eri un bel saturo, poi hai cominciato, ho visto che hai fatto gli arrangiamenti ed è buona adesso, buonissima, anche quando attacchi. Quindi non ti disturba, dai. Adesso hai attaccato, vedi un pochino quanto hai segnali da te. Qui sul presidente mi stai arrivando a fondo scala e la radio è bellissima. Meno male, dai, abbiamo trovato un compromesso. Va bene, a dopo, se coincide dopo mangiato anche, dai. Così lo lascio acceso, vediamo se rende, se scalda e rende di più. Ok, rilancio di nuovo a Giulio. Ciao Giulio, ciao Franco, ciao Vittorio Sfoltoni. Poi al limite già entrerà anche Claudio. Ciao, riprendi Giulio. Ok, sì, ciao, ti saluto di nuovo, sì. Grazie ancora per la chiacchieratina, dai, a domani eventualmente. Ok, fra, sì, ancora 5-10 minuti penso di poter rimanere, fra, non lo so di preciso, perché sto aspettando il lancio. infatti sotto le armi si chiamava il rancio, proprio il rancio si chiama, per carità, la razza di cosa male. Purtroppo era così, sai cosa si vuole fare, era così, ma uno mi si è passato, dai, e nessuno è morto. E infatti, 13 mesi me ne è toccato a me, e anche se non mi piaceva, ho dovuto fare per forza. Certo. L'obbligatorietà, ma secondo me non lo fanno perché sono soldi che spendono, una parte di soldi spendono, e poi è meglio che non lo facciano, perché quell'anno che loro ti obbligano di servire a loro non ti danno neanche i contributi che ti danno. E infatti, oltre al fatto che sono un peso per la nazione, le spese, c'è anche da dire questo, e soprattutto è una rovina per i giovani che interrompono il lavoro e poi vai tu e ritrovo, ma come fai? Vai a perdere. Anche perché prima si entrava a lavorare da ragazzini, piccolini, 14, 13, 14 anni, 15 anni, massimo stavi già lavorando. Oggi invece per fare qualità non puoi entrare a lavorare, per cui è grande un fine. Quando vieni da fare il servizio di verba, tu si va a disincare. E quando impari un mestiere? Mai! Appunto non li farà mai, anche se loro dicevano che tu parti di fare il lavoro, parti militare, e poi quando torni il principale è obbligato, la società è obbligata a riprendere, se il tuo posto non c'era. E invece c'era qualcuno, io per dire sono rientrato, e c'era qualcuno che il principale ci ha assunto un'altra persona, e a quello lì gli ha detto no, produce, no, non mi servi più. Soprattutto i piccoli artigiani, eccetera, e al stesso momento io ho avuto necessità e ho assunto un altro. Adesso a te non ti posso assumere perché non ce la faccio a tenerti. Tanta gente ragionava in questo modo, ma era, secondo me era anche una cosa normale. Sì, è una cosa normale, sì, per chi lavora. Però loro, lo Stato, non era normale quello che stava facendo, perché stava prendendo per il culo tutta l'Italia, stavano prendendo per il culo, perché uno quando, specialmente a 18 anni te lo chiami sotto le armi, che poi non andava a 18, andava a 19, a 19 anni lo stai rovinando, perché a quando lavorare a quello lì ci dà 23 anni, ci dà, e quando è che lavora a questo qua? Mai, già al giorno, quando si li fa, mai. Infatti è così, è quello che devo dire io. Già incomincia oggi, perché prima non li puoi nemmeno prendere, io voglio lavorare, non è come una volta che te ne prendevi anche 7 anni, 10 anni a lavorare. Oggi se non vai a 18 anni minimo non ti prende nessuno, ma se poi cominci a partire fuori, e quando vieni, vai a 23 anni, e chi ti prende più? A quell'età non ti prende più nessuno, per carità, nonostante che uno è ancora giovane. A parte il fatto che oggi lavoro già non se ne trova più come una volta. Una volta uscivi da un negozio, entravi nell'altro e avevi il posto di lavoro tranquillo. Ma oggi si viene in Italia e non riesci a ottenere un posto di lavoro. Purtroppo le condizioni oggi sono queste. Vediamo se rientra Claudio. Claudio, lugare buttato dai. Sta mangiando, vedi? Cosa sta mangiando? È andato in giro col cane, è andato. Vabbè, forse 10 minuti che è andato via, porta loro. Attento, non ti parla, ortiere 7, avvisi sì o no? Vabbè, ma la chiamata è arrivata, sopra, la chiamata è arrivata. Ti devo lasciare, vai. Scusami, ma ti devo lasciare, devo andare a cenare, vai. Ok, fra, a domani, è sempre un piacere chiacchierare con te, ci sentiamo le prossime, eh? Ok? Ciao fra, grazie per la chiacchierata, ciao. Ehi, capo, tutto ricambiato, dai. Ciao Giulio, ciao. D'accordo. E niente, no, intanto non riuscire a dire anche io. Ciao, Marino. Ci sentiamo, ciao. Ciao, domani, ciao. Ciao, ciao, Marino. Sì, a dopo. Ok, ciao, fra, di nuovo, ciao.